Solo il vento quando soffierà mi regalerà un'emozione. Un giorno sarò lì con la voglia di volare. Sospeso a un filo immaginario dove è facile cadere. Oggi sono qui con la voglia di urlare. Il mio sogno è veder sorridere una stella, guardarla nel cielo mentre brillerà, tenendo acceso un filo di speranza che nessuno mai spegnerà. Ora vivendo senza me, quanti rimpianti sentirai? Adesso sono qui con la voglia di tornare. Il mio sogno è veder sorridere una stella, guardarla nel cielo mentre brillerà, tenendo acceso un filo di speranza che nessuno mai spegnerà. Il mio sogno è poterti accarezzare ancora, dall'alto del cielo su te veglierò, tenendo acceso un filo di speranza, un giorno io ti ritroverò.